Beato chi ti accoglierà, beato chi ti ascolterà, beato chi ti servirà, beato sarà chi t'amerà, ti seguirà. Beato chi tu accoglierai, Signore Gesù. Beato chi tu ascolterai, Signore Gesù. Beato chi tu servirai.